Wall Street, i viaggi del lupo. Bene, oggi è venerdì e siamo tornati con una nuova puntata di Wolf Trips. E io sono Domenico Biancardi alla regia e sono pronto a condurvi in un nuovo viaggio nella buona musica, nella musica underground. Abbiamo delle nuove tracce questa sera, il nuovo di Fife, Casbo, Lizzyland e Big Gigantic. Questa sera abbiamo anche un ospite, lui è DJ Power, lo intervisteremo tra un pochettino. E adesso andiamo ad ascoltare subito il primo brano che è una novità, dicevamo Fife con Belong feat. Kimbra. Abbiamo iniziato in modo molto soft questa puntata di Wolf Trips. Lui era Fife, in nome vero Paul Dixon, di Londra, 27enne, inizia l'attività nel 2010. Questa canzone la canta con Kimbra, che è un artista della Nuova Zelanda che ha già collaborato con Gotye, vincendo anche numerosi premi come il Grammy Awards. Dicevamo che questa sera abbiamo un ospite, lui è DJ Power. Ciao. Ciao. Avvicinati un attimino più al sì, microfono. Così. Niente, presentati pure velocemente, dici un po' chi sei, cosa fai. Ma guarda, io niente, ho iniziato a fare il DJ nel 2012. Per okay. cui ho fatto un corso di base alla Casa del Disco, quindi base avanzato. Ho fatto diversi contest tramite Max, Master Max, che saluto. E poi ovviamente ho fatto, sono fermato, quindi poi casa di corso di produzione a Gallarate, per cui ho fatto un disco con un mio amico della Casa del Disco, Ibiza, l'anno scorso. Ok, quindi praticamente fai sia il DJ che il produttore. Sì, sì, in poche parole sì. E niente, poi ho continuato quindi a girare, come appunto ti dicevo prima. Sono stato al Dolce Salato a Gallarate, sono stato allo Stone a Busto Arsizio e poi un posto a Como. Ok, ok, quindi hai iniziato a fare un po' di esperienze sì, come DJ. Ho girato un bel po' di posti. Ok, ok. Teniamoci altre domande per dopo. Adesso andiamo ad ascoltare il prossimo pezzo, che è di Thundercat con Dame Changes. Steve Barner, in arte Thundercat, un artista che abbiamo suonato più volte a Wolf Trips, quindi stiamo un po' aumentando di genere, aumentando un po' di BPM, siamo passati alla jazz fusion elettronica. L'album da quale è estratto il brano è Drunk, e lui è un artista veramente poliedrico. Ma torniamo a parlare un po' col nostro artista di stasera, che è DJ Power. Effettivamente non ci ha detto come ti chiami davvero. J Power. No, dai, dici un nome, almeno un nome, dai. Andrea. Ok. E diciamo che tu fai anche produzioni. Infatti, sì. Più tardi ascolteremo un tuo bootleg. Sì. E mi dicevi che fai produzioni per un'agenzia e. Sì, diciamo che collaboro con questa agenzia. E ovviamente ogni mese collaboriamo insieme sui miei bootleg. Ogni mese escono delle idee nuove. Quindi ogni mese avremo un tuo bootleg da ascoltare. Sicuramente. Perfetto. E ultimamente mi hai detto che hai suonato. Sì, mi stavi dicendo che dovrei suonare, anzi. Sì, a breve. Domani sera suonerò al J Club a Vergiate. Okay. Una serata, vabbè, latino reggaeton. E presenterò anche lì il mio nuovo bootleg. Quindi tra un latino e un reggaeton, gli allunghi un po' un pezzettino, sì, un po' sì, più. Sì, volevo presentarlo. Poi quest'anno sono stato al Biblos, ho fatto 3 domeniche. Tra cui saluto Scarlet DJ, Maro Piazza, che ho fatto con loro delle 3 serate al Biblos a Malnate. E poi, continuo, cioè non mi fermo, continuo. Beh, giustamente. Ovviamente. Come è giusto che sia. Sì, assolutamente. Ma è il tuo genere preferito, quindi? Ma il mio genere preferito è EDM Tribal. è house commerciale. Sì, sì, sì, ok, okay. Su quei tre EDM, che è un po', diciamo, electronic dance movement, sì, giusto? Sì, sì, sì, sì. È un po' anche quello al quale si ispira Wolf Trips, anche se in realtà noi prendiamo la parte magari un po' più underground, ci spostiamo più sulla elettropop, ecco, non andiamo più sul genere più da discoteca, che sì, ovviamente è più da pista. Sì, sì, in effetti. Poi ho fatto anche un'intervista a Radio Ritmo, che sono stato sì, in questo sì, periodo. Sì, conosciamo, che salutiamo, sono nostri amici. Saluto Alessandro Bellora. Sì, Ale B, conosco bene. Italo Veronese e poi l'altro suo amico. Anzi, lo saluto anch'io, perché l'ultima serata effettivamente me ne sono andato senza salutarlo e se l'è un po' presa male. Ah, oh, adesso Madonna. Andiamo ad ascoltarci un altro brano, poi continuiamo la nostra intervista. Okay. E loro sono i Sacr con The Call. È un brano che abbiamo ascoltato già settimana scorsa, ma vedo che su internet sta veramente iniziando a spopolare. Every step ahead, a little further. Look how far we've come. Express who you are. E loro sono i Sacr con il brano The Call, un brano dal sapore pop elettronico estratto dall'etichetta Yellow Shark. Continuiamo sempre la nostra intervista con DJ Power. Effettivamente, prima parlando, abbiamo detto che praticamente la tua agenzia ti aiuterà a rilasciare dei bootleg. E ti volevamo chiedere, che cos'è allora un bootleg? Descrivicelo. Praticamente un bootleg è praticamente prendi un pezzo vecchio e lo trasformi nel genere, che ne so, EDM, tribal, house. Okay. Poi dipende dal genere che appunto si collabora. E il bootleg che andremo a ascoltare dopo, dici qualcosa a riguardo. Allora, è uscito l'altro ieri e in pratica abbiamo preso la base di Axwell, Shining. Ok. Del genere. E Sunny Shining. Sunny Shining, e l'abbiamo fatta versione EDM. Ok, ok. Il tempo di, diciamo, di lavorazione, di ideazione? Ma un mesetto, ci abbiamo messo un mesetto per completarla. Ok, ok. Io direi che allora, già che ne abbiamo parlato, andiamo ad ascoltarci un pezzo di questo bootleg che hai realizzato. A simple band of gold wrapped around my soul. Heart forgiven, heart forget. Castles made of sand. No more guessing, no regrets. Ok, ok, abbiamo capito il genere, bello carico, a me piace, devo dirti la verità, a me piace molto. Stavamo dicendo quindi, teniamocela come base sotto che non mi dispiace. Stavamo dicendo quindi la differenza tra il bootleg e il remix. Allora, il bootleg è praticamente prendi un pezzo vecchio, scusa, praticamente il bootleg prendi un pezzo vecchio e lo trasformi nel genere che vuoi, comunque sia EDM, tribal, house commerciale, come vuoi farlo. Invece il remix è praticamente prendi una canzone, le butti in mezzo, però devi appunto modificare, cioè appunto che ti viene questo remix e butti tu una base. Quindi praticamente cambi un po' la natura del pezzo. Invece sì, diciamo in questo caso qua, in questo caso la struttura rimane. Prendi un pezzo vecchio e lo trasformi praticamente. Ho capito, ho capito. Sì. E già che ci siamo, allora, sì. I tuoi progetti futuri, quindi quali potrebbero essere? Non so, da qua a qualche anno, ma, cosa ti piacerebbe fare? Ma guarda, continuare la passione per DJ che mi piace molto. Sì. E continuare a produrre e poi comunque sia continuare a far serate, farmi conoscere un po' di più e proseguire praticamente. Vabbè, io comunque ti rinnovo l'invito nel caso fare altri bootleg. Va bene, quando vuoi, va bene, per me non c'è nessun problema. E se vuoi rimanere con noi fino alla fine della puntata, puoi restare tranquillamente. Va adesso bene. Andiamo ad ascoltarci un altro brano e poi dopo pubblicità. On myself, take all dust them off, put them back up on the shelf. Just a little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Like that, you right. Nigga think you got it like that when I act like that, alright. I'm about to have to backtrack, back on track. You right. Already know what you want, bitch, why you keep hitting my phone? Mm-hmm. Fuck with a nigga before, just wait till I get in my zone. Mm-hmm. Fuck all the silly talk, mama told me never hit it wrong. Mm-hmm. Certain shit a nigga pick up on, you cannot trick me, the jig is up. Never up, bitch, like, evidently you dumb. No, the boy ain't no chump. Real nigga don't say nothing. I'ma roll up my skunk. Then I burst up like dumb. When your nigga gon' give up? Keep it real, girl, quit fun. When you put it like that, you right. Nigga think you got it like that when I act like that, alright. I'm about to have to backtrack. Track on fact, you right. You right. Never ever give a bitch a clue what you really tryna get into. Mm-hmm. Both the friends wanna come with me, tell her good things always come in threes. Mm-hmm. Can't let you walk out the door till you show me what that pussy hitting for. Not tryna fuck up the vibe, but you got me out by a quarter to five, ho. Say that she feelin' my aura, but never been with a nigga from Aurora. Think like she in Salvadorian, feels like she workin' Sephora. Everything going accordingly until she started feeling too important. I couldn't do nothing for her. Before shorty left out the door, she said, when you put it like that, you right. Nigga think you got it like that when I act like that, alright. I'm about to have to backtrack on fact, you right, yeah. When you put it like that, you right. Nigga think you got it like that when I act like that, alright. I'm about to have to backtrack on fact, you right, yeah. E torniamo in onda con Wolf Trips. Abbiamo ascoltato prima della pubblicità i Portugal e adesso stiamo ascoltando invece un brano, come diceva qualcuno, molto rap, però devo dire la verità anche un bel po' elettronico. Loro sono i Day e sono di Los Angeles e California, in attività dal 2015. Questo brano si chiama You Right ed è estratto dall'album New Religion Iena. Diciamo quindi un mischione di generi tra l'elettronica e l'R&B e il rap. Tu nelle tue serate passi qualcosa di, che so, hip hop, qualcosa, sì, del, perché immagino che in preserata hip hop sia, no, sempre quello. No, mi è capitato quello. Una volta che ho fatto un po' di canzoni hip hop e un po' comunque sia genere, sai, sempre reggaeton latino, un po', sì, fatto, sì, un, sì, misto, sì, sì. E poi ovviamente ho messo un po', diciamo, il genere che c'è adesso. Tipo faccio qualche esempio di qualche pezzo, così che ti viene in mente veloce. So, tipo, che ne so io, qualcosa di, to, tipo Christian Marchi, to, genere, okay, Christian, okay, Marchi, okay. Ho messo qualcosa di, to, commerciale. Poi, sai, tutti i DJ comunque... Ah, quindi, vabbè, comunque, diciamo, questo tu lo consideri comunque reggaeton, ma sempre, che Christian Marchi comunque produce sempre comunque musica, sì, un, sì, po', sì, più... Marchi comunque sì. No, fai conto che sì, nelle serate appunto mi è capitato tra fare hip hop e reggaeton, poi ho messo comunque sia genere appunto commerciale così. Ah, ok, poi, okay, ho cambiato EDM, tribal, che il tribal è veramente un bel genere. Sì, sì, sì, io anch'io avevo iniziato con quel genere lì. E qualche artista tribal che va adesso, che sinceramente sono rimasto un po' fuori dal genere? Ma adesso il tribal lo so che, nel senso, diversi comunque sia artisti che lo stanno facendo. Nare Milani, non so se hai presente chi sono. Sì, sì, ecco, sì, sì. E hanno fatto praticamente, c'è questo ragazzo che ha fatto delle produzioni con loro E niente, ha fatto belle quelle cose tribal, veramente ok, belle. Ok, ok, poi dopo magari mi passi qualche titolo che lo voglio ascoltare. No, vabbè. Adesso andiamo ad ascoltare invece il brano di Gold Link, Fall in Love, un brano che abbiamo già ascoltato molte volte, ma vi ripropongo sempre molto volentieri. Told you I ain't one to fooling with, not communicating, but I get that from my mama. It's a jungle of gorillas. Why you fuck with anacondas? I'm a Zulu Nation rapper. Get the hammer like your honor. Keep it moving for my partners. Ain't a hooving in me, Kasa. Ain't a hooping. She just bouncing at the juicy, but I'm Fanta. Got the juice, and then I lost it. I put two with my deposit last week, but I made that cat we black sheep. Hey, do not fall in love with that nigga rap sheet. Hey, you know I'm just out here really trying to pass me. Hey, young Cicero, keep that ish nasty. Hey, I don't know about them, but I do love. This right here, it's that group love. Hey. Song. What happened to love? It's inside this you, get your new head. Fall in love, ooh, ooh, fall in love. Wish I never did it, I don't wanna love, love. Fall in love, ooh, ooh, fall in love. Wish I never did it, I don't wanna love, love. E lui, D'Antoni Carlos, in arte Gold Link. È giovanissimo, è del 93 e proviene da Washington. Anche lui è un genere hip hop misto un po' all'elettronica. Abbiamo ascoltato anche altri brani di Gold Link un po' più spinti sull'elettronica, questo brano un po' più leggero, ma mi piace veramente molto. E stavamo parlando prima di persone famose, diciamo, che si conoscono. Io non li conosco. Tu non li conosci, infatti, nemmeno io, quindi non li conosco. Però nel senso sono bravi, cioè sono, fanno le cose, fanno delle produzioni veramente belle. Sì sì, quello sì. Quello assolutamente. No, ma poi in realtà io devo dirti la verità, girando un po' per i locali così, ne ho conosciuti molti. Sì. Magari uno si immagina la super, ci sono poi vabbè le superstar, quelle sì, in arriva. Però c'è veramente, c'è tanta gente che magari noi ascoltiamo il disco, ci sembrano delle super persone, poi invece sono persone alla mano. Sì, no, ma infatti. Devo dirti la verità, non è... Cioè non è che uno dice ah vado ad ascoltare per esempio Christian Marchi, poi magari non riesce neanche ad andare a salutarlo. Tu mi dicevi che sei riuscito anche ad andare a farci la foto. Sì, quindi sì, tutto sommato. Sì, quando sono stato, dicevo, col mio ex socio al Minimal, sono riuscito a fare la foto e vedi. Però dai, diciamo, cioè, bravo. Nari Milani l'abbiamo, vabbè, diciamo che siamo andati una serata al Panama, diciamo che siamo detto vabbè dai ci presentiamo. Eh beh sì, ma giusto. Ma fai due parole, ma niente di che, nel senso. Giusto, giusto. Però bravi, bravi anche loro, sono veramente bravi produttori. Adesso ingraniamo un po' la marcia qui a Wolf Trips. Andiamo ad ascoltare un remix di Skier, spero che si pronunci così, che il nome è scritto così, ma sinceramente non so la pronuncia. Ed è un pezzo di Lizzy Land con Sweet Melody. Float on, I'd be fine on my own. No ties to pull me back and forth. But I like the way you move me. I like the way you take me out. I like the way you see me. I don't need my eyes when you're around. Never thought I'd feel this way. is my mind. So hard to hide from you, but I like the way you move me. I like the way you take me out. Here in the dark, you fool me. Stuck in a daze and I can't get out. Never thought I'd feel this way. I never wanna see you go. Never thought I'd be the first to know. No, no, no. I hear a love song playing in my head like ooh. E questo nuovo brano all'interno di Wolf Trips è molto tranquillo, molto melodico. A te piace DJ Power? Non credo che sia roba che puoi suonare, no, devo dire la verità. Non è male, cioè, è un po' diverso da quello che ascolti di solito. Sì, no, però dai, non è male, è ballabile. È ballabile, sì, sì, sì, sì, sì. Ballabile. E volevo chiederti un'altra cosa, sì, sempre per quanto riguarda la produzione, sì, che è una cosa che a me piace molto. Sì. Dicevamo, tu utilizzi, quindi produci con campionatori, ecco, mettiamola così, sì, esattamente con Ableton, mi dicevi, giusto? Sì, fai conto che il corso, quando ho fatto il corso di produzione a Gallarate, avevo usato Ableton. Adesso mi piacerebbe appunto usare Logic, che è un Logic è un passo in più, è effettivamente. È veramente bello perché fai di quelle produzioni da paura. Sì, sì, sì. Quelle sì, basi veramente belle. E devo dire un'altra cosa che ho ascoltato nel tuo brano, che il, diciamo, il suono, la qualità del suono era veramente, sembrava veramente un disco da radio, ecco, sì, mettiamola, sì, così. Sì, sì, e la, diciamo, la produzione, la finalizzazione della produzione, poi chi la segue? La segui tu? La fai seguire, che so, l'agenzia? Ma diciamo che ovviamente collaboriamo sull'idea del bootleg. Sì. Poi ovviamente ci vuole comunque sia sempre un mesetto che esce e poi viene fuori comunque sia una cosa bella. Saluto Fabio De Vivo e la Federica, la sua ragazza, che mi stanno ti aiutano, supportando a, comunque sia, produzioni, sì, foto, ci vuole, foto, video, comunque li ringrazio. Ci vuole un po' di supportazione. Sì, supporti, comunque li ringrazio ancora di quello, della mano comunque sia che mi stanno dando. E poi vabbè, saluto appunto Master Max, che è stato appunto il mio insegnante di corso. E sì, perché giustamente tu, non so se l'avevamo capito prima, hai fatto anche un corso da DJ, mi dicevi, sì, vari corso step anche. Base avanzato, casa del disco con Master Max, che poi appunto mi ha insegnato a stare a tempo, tutte queste cose qua. E poi appunto il corso, quindi, di produzione. Quindi non sei proprio improvvisato, come in realtà a me capita ascoltare molti DJ, sì, in vari locali, sì, che sembrano chissà che, poi in realtà li senti che i passaggi, dici, ma ti lasciano un po' a desiderare, però vabbè. No vabbè, ma quello poi dipende. Ok, ok, ok. Allora, adesso andiamo ad ascoltarci un nuovo brano all'interno di Wolf Trips, perché un po' di novità ancora non le avevamo ascoltate. E lui è Casbo con il brano Found You. Together, oh, oh, oh, E il DJ Casbo, che proviene da Gothenburg, inizia la sua carriera a 21 anni addirittura. E i generi che mixa sono diversi. In questo caso abbiamo, potremmo quasi definirlo un dubstep pop, ecco, non è proprio un vero e proprio dubstep. Tu secondo te che genere potrebbe essere questo? Non è un genere proprio definibile. Ma diciamo un genere tranquillo. Sì, sì, quello sì, su quello sono d'accordo. Quello è tranquillo. Su quello sono d'accordo. Sì, sì, sì. Però il brano, devo dirti la verità, su SoundCloud e altre piattaforme che seguo spesso, sì, sta avendo veramente moltissime visualizzazioni. E volevo parlare, prima ne accennavamo, sì, al discorso invece console, sì, che è molto importante. Perché sempre riaccollegandomi a quello che dicevo prima, cioè che ormai i DJ sono, la maggior parte sono improvvisati, e non è il tuo caso, e comunque devo dire la verità, non è neanche il caso di molti altri. Quelli, tra quelli non improvvisati e barra quelli improvvisati, ci sono quelli che utilizzano solamente il PC. E tu mi dicevi invece che in realtà hai fatto potrebbe essere una cosa discutibile, nel senso, sì, beh, diciamo, non è detto che sia una cosa negativa usare il PC. No, beh, diciamo che vabbè, per i primi periodi ho usato questa console Pioneer computer. Beh, comunque Pioneer è già una Pioneer. Non è l'Hercules, per dirti. No, Pioneer. E vabbè, ovviamente da lì, sai, ho cominciato a allenarmi e tutto, sì, provare. Poi ovviamente facendo il corso da Max usavo i 100S. E quindi un giorno ho detto, no, com'è possibile? Cioè, qua devo appunto cambiare, perché così a computer la console va, cioè a computer va da sola. Certo, e certo. E quindi non, sì, ok, riesci a mettere tempo. Sì, diciamo che l'ho usata tanto per prenderla a mano. Poi ovviamente da lì ho cambiato, sono passato ai 350, quindi CDJ. Sì. Quindi ho usato 350, 400, poi diciamo che le usate un po' tutte. E poi ovviamente, sai, è un po' più... Non è semplice, però diciamo che 350 CDJ, comunque console, il tempo ti viene appunto bene. Poi devi avere appunto anche orecchio. Anche giusto, così. giusto, quello assolutamente. Passione. Dopo il pezzo volevo chiederti un po' di aneddoti delle tue serate, nel senso qualcosa di particolare che ti è successo. Ma no, ce lo teniamo per dopo. Okay. Adesso andiamo ad ascoltare un brano che abbiamo ascoltato settimana scorsa, che secondo me è veramente molto molto bello. Lui è Jacob Banks con Chainsmoking. It's getting harder to breathe. Chain smoking your love. Can't be good for my sanity. Can't be good for my lungs. Chain smoking your love. Chain smoking your love. And the bailiff's at the door, and still I'm hanging on to the life we had before. I know this cold in love won't lead me to the Lord. Although I'm black and blue, I'm begging you for more. Yeah. It's getting harder to breathe. Chain smoking your love. Can't be good for my sanity. Can't be good for my lungs. Chain smoking your love. Chain smoking your love. Chain smoking your love. Chain smoking your love. We watched the water rise and waiting by the shore. Take me. Floor. You say we're meant to be, but I've seen your odyssey. I'll be a casualty when morning comes. Questo brano a me piace veramente tanto. Vedremo un po' come si evolve nei prossimi mesi. Allora, dicevamo prima che ti volevo chiedere un po' di aneddoti delle tue serate, nel senso, Ti è mai successo qualche richiesta un po' particolare? Sai come si vede magari nelle pagine anche di Facebook, non so, dedicate ai DJ, tipo sì. Me la metti questa, me la metti quell'altra? Ti è successo qualcosa del genere? Sì, mi è successo al Dolce Salato a Gallarate, che appunto volevano canzoni reggaeton latino. Vabbè, cosa stavi suonando però? E diciamo che ho messo qualcosa di pesante, un po' di EDM, un attimo ho messo qualcosa di EDM. Sì. E poi appunto mi hanno chiesto appunto qualcosa di latino e reggaeton. Vabbè. Non è, dai, non è tanto. Cioè, ma ti hanno chiesto un pezzo in particolare? Oppure ti hanno chiesto solo il genere? No, mi hanno chiesto il genere. Ho capito, di fare ho capito. Per quella serata, quel genere lì. Ho capito. Sì. Vabbè, tutto sommato ti è andato anche bene. Perché devo dirti la verità: a me quando suonavo, capitava spesso che magari chiedevano. Stavo suonando magari per dirti house. Mi metti il pezzo, ma neanche pop di, che so, di Britney Spears. Dici, sì. Ma sì. Che cavolo state a dire? Vabbè. Adesso andiamo avanti un po' con la musica. Questo è un altro brano che mi ho ascoltato settimana scorsa. Anche questo molto bello. Questi due brani qua me li tengo, me li appunto per il futuro. Lui è Nombe con Freak Like Me. Freak like me, she knows just what I like. She carries all the keys to the places that no one dares to find. She won't tell nobody what goes on in these walls. If they talk, they probably tell you all about love. So my soul help us all. And it's close to a fight in the midst of neon lights. And my neighbors, they greet me with bags under their eyes. You know why? My baby's a freak like me, and she knows just what I like. She carries all the keys to the places that no one dares to find. She won't tell nobody what goes on within these walls. If they talk, they probably tell you all about love. Solitario dal 1979 ti regala emozioni rock. Pubblicizza la tua attività e cresci insieme a noi. Il nostro consulente è a tua disposizione al 349-7731-166 oppure scrivi a commerciale@radiolupo.it. La tua pubblicità su Radio Lupo Solitario. Vuoi la musica di Radio Lupo Solitario sempre con te? Vuoi interagire con le nostre dirette? Scarica l'app! È gratuita e disponibile per dispositivi iOS ed Android. Radio Lupo Solitario. Keep your rock alive! Wolf Trips. I viaggi del... I feel your ghost when I'm all alone. It's like I'm caught in your wishing well. You're a crack in my heart of stone. feelings they start to grow. Maybe I'll fall for you. I crave your skin. I can't give in. Don't let it show. I think about the times you touch me. Hands all on my body. Maybe you should. Back in the day, I used to say,

thing that show them we are better. Let's show them we are. Show them we are. Let's show them we are. Show them we are. Let's show them we are better. We're staying in Paris. Let's show them. We were staying in Paris. We were staying in Paris. E sulle note di questo brano dei Chainsmokers, che è molto commerciale, non so se tu l'hai mai sentito. Sì, questo sì. No, però questo remix qua è particolare. Questo remix qua è molto particolare. Riprende un po' anche questo il genere dubstep. Anche se neanche troppo esagerato, diciamo, non è dubstep tipo Skrillex, per no, dirti. No, diciamo ballare, cioè veramente sì, ballare, sì. Questa cosa la balli proprio tranquillo. Sì. Però ci sta, non mi è piace male. Molto, mi piace sì, molto. Sì. Dicevamo, sulle note di questo brano, la puntata di oggi purtroppo si conclude qua. Purtroppo ci è andato solo un'ora, io sarei andato avanti ore e ore oggi. Ricordo che oggi abbiamo avuto come ospite DJ Power, che voleva salutare qualcuno. Volevo salutare la mia ragazza Veronica Bernasconi. È importante, perché sennò non torni a casa. Quando torni a casa, sennò non va bene. No, vabbè, ci vediamo poi dopo. La saluto in diretta, vabbè, l'amo tanto, perché quello, vabbè, giusto. Assolutamente sì. E poi, vabbè, saluto sempre Master Max, l'agenzia, quindi Fabio, la Federica. E poi saluto Salvatore, Tony, Diana, Angelo, comunque sia tutti quelli che, anche altri ragazzi. Beh, la classica frase, tutti quelli che mi conoscono, sì, no? Sì, vabbè, quella che comunque, si dice sempre, no? Sì, infatti, poi vabbè, l'Andrea Lombardi di Ferno, la mia ex compagnia, la Fabi, vabbè, gli altri. E poi concludiamo invece ricordando che domani suonerai al... Sì, domani sera sarò al J Club di Vergiate per una serata a ritmo latino reggaeton. E in esclusiva presenterò anche il bootleg. Bene, per noi è stato un onore averti qui. Quando vorrai tornare, quando non vuoi, c'è problema. Ci sentiamo magari quando avrai un altro bootleg, sì, da farci ci sentire. Ci sentiamo per i bootleg, assolutamente. Bene. Wolf Trips torna settimana prossima con nuovi brani. Ciao ragazzi. Intanto salutiamo DJ Power. Torna settimana prossima con nuovi brani. E per oggi è tutto. Ciao.